Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quando noi parliamo di calcio, lo sapete, non andiamo a raccontare le vite dei calciatori famosi solo perché sono famosi, noi andiamo a cercare i personaggi particolari, quelli che hanno qualcosa anche della rockstar dentro, George Best, Ezio Vendrame, perfino quel disperato che era Robin Friday. E oggi raccontiamo la storia di un altro calciatore assolutamente in odor di rock and roll, che ha giocato nella Juve, nella Roma, ma soprattutto nel Verona, perché se andate a Verona oggi a chiedere di lui trovate ancora gente che vi dirà con certezza che stiamo parlando del più grande di tutti. Il suo nome è Gianfranco Zigoni. Ne parliamo anche grazie a un nostro ascoltatore, Tommaso di Bassano del Grappa. Buongiorno Tommaso. Buongiorno Enrico, ciao. Buongiorno, senti, come mai Zigoni? Tanto quanti anni hai tu? Beh, io ho 43. Ah, capisco allora. Sì, sono giovane e non l'ho visto naturalmente giocare. Sì. Però io sono un gran tifoso della Nerossi Vicenza. Sì. E quindi hai parlato di Vendrame qualche mese fa, ah, sì. Per par condicio, dici. Esatto, per contrapporre al Vicenza una squadra rivale che è il Verona. Bravo, mi è venuto in mente di parlare di Gianfranco Zigoni. Oh, bello, intanto bel gesto. E poi Vendrame e Zigoni erano grandi amici, ne parleremo dopo. E sì. Allora Tommaso, ti ringrazio e buon ascolto. Grazie. Perché sono nato proprio nel 44, nel culmine della guerra. Un aereo che passava la notte e bombardava la ferrovia. Io tremavo nel lettino e lì penso che il mio cervello è impazzito. Oderzo, 25 novembre 44, provincia di Treviso, sotto i bombardamenti di una guerra che è al suo epilogo. E lì nasce Gianfranco, il quinto di otto fratelli. La sua è una famiglia semplice, sono tutti contadini. Chi non ha voglia di andare nei campi se ne va in Canada o in Venezuela. E invece la famiglia Zigoni resta lì, in un quartiere che Gianfranco chiama il Bronx. È un quartiere dove si conoscono tutti, tutti si aiutano con quel poco che hanno. E per i bambini, naturalmente, il punto di ritrovo è l'oratorio. Ho iniziato con i bambini dell'oratorio, penso come tutti una volta. Il prete aveva la passione per il calcio e si giocava così nel mio quartiere, qui dove siamo ora, e all'oratorio fino a 15 anni. Sì, non era come oggi che i bambini a 7 anni vengono già comprati dal Barcellona, dal Real Madrid, vengono fatti crescere come polli d'allevamento. Lì si giocava liberi negli oratori. Poi arriva l'osservatore. A 15 anni, uno dei tanti che girano a cercare il talento nascosto, arriva a vedere giocare lui. Parliamo di un uomo della Juve che mette in campo Zigoni nella partita di quei ragazzini e dopo 10 minuti capisce tutto e gli chiede perché giochi a piedi nudi, è già uno strano, e poi gli chiede di andare a giocare sul serio a Torino. Gianfranco Zigoni non è convinto, perché intanto a lui del calcio non gli importa più di tanto, è un passatempo, la sua vera passione è il rugby, avrebbe preferito essere chiamato, non so, dal Petrarca Padova, dalla Metalchrome Treviso, dal Rovigo, tutte squadre forti, tutte della zona. E invece il parroco si mette di mezzo, convince i genitori a dare una possibilità a quel talento che tutti conoscono, perché in molti si stanno accorgendo che Gianfranco Zigoni ha una marcia in più. E io ho avuto la fortuna di giocare a calcio, forse quello ho detto, ma sì, gioco perché aiuterò anche un po' la famiglia. E mi sono trovato senza volere in uno sport che poi non è che mi piace molto, però penso sempre che la vita è un destino. Un anno nelle giovanili e poi a 17 anni Gianfranco Zigoni esordisce in Serie A con la Juve contro l'Udinese. È una Juve particolare, lì gioca gente come Del Sol, Castano, Salvadore e poi c'è lui, c'è Omar Sivori. Con Sivori il primo impatto non è certo dei migliori, la prima cosa che fa incontrando il giovanissimo Zigoni è quella di dirgli di portargli la borsa. Beh, Omar Sivori era il mio idolo e quando l'ho visto mi ha detto: chi è di voi ragazzini che giocate col 10? E gli ho detto: io gioco col 10. Lui mi fa: ragazzo, cambia maglia, perché che quella lì non giocherai mai. Stupendo. Nello spogliatoio Zigo, come lo chiamano tutti, è uno che si fa voler bene e si ritrova dalle campagne di Oderzo a Torino con i grandi giocatori della Juve. E è una grande soddisfazione. Il suo atteggiamento un po' ribelle invece non piace alla dirigenza, anche perché lui non è uno che manda giù tanto facilmente il famoso stile Juve. Lo si capisce fin dall'inizio. Ragazzi, voi dovete tagliarvi i capelli qui alla Juventus. Se non mi rompi, io ti taglio i coglioni a te. Li taglierò, ma perché io voglio tagliarmeli. Non ero ben visto alla Juventus, perché ero un po' ribelle, ecco. Così dopo 3 stagioni, 4 gol, panchina, anzi in quegli anni tribuna, perché in panchina si andava in 2 o 3, e i capelli tagliati, Zigoni se ne va, va in prestito al Genoa, segna 8 gol, la squadra però retrocede, allora va in B e segna altri 8 gol, a quel punto torna a Torino. 2 anni di gavetta lo hanno fatto crescere, la Juve trova un allenatore paraguaiano molto tosto, si chiama Heriberto Herrera, è il fautore del movimento, un modulo di gioco molto difensivo, diciamo che si basava un po' sulla corsa e sul pressing, anche perché nella Juve di allora non c'erano giocatori di grandissima classe a parte Omar Sivori, era una squadra diciamo operaia, però Herrera è un uomo che insegna la disciplina e infatti non va d'accordo con Sivori, che se ne andrà al Napoli, e non va d'accordo neanche con Zigoni, che di disciplina non ne voleva sapere. Ma ha fatto impazzire quell'uomo lì, perché pretendeva che corressi come un matto, ma un po' tarpato le ali, io ero più nestroso. Eppure in quei 5 anni che Heriberto Herrera trascorre a Torino, riesce a costruire una squadra operaia che non combina nulla, tranne che in una stagione nel 66-67, e gioca un brutto scherzo a un altro Herrera, quello più bravo, più famoso, Elenio, che sta portando l'Inter verso la vittoria del campionato, ma purtroppo non ha fatto i conti con la Juve e soprattutto con Zigoni. Il falco e il gabbiano. E con la storia di Gianfranco Zigoni siamo arrivati al 1° giugno 1967. Lui è tornato alla Juve, siamo all'ultima giornata, l'Inter ha un punto di vantaggio sulla Juventus. L'Inter è reduce dalla finale di Coppa dei Campioni a Lisbona, ha perso 2-1 contro il Celtic. Si gioca, l'Inter va a Mantova, la Juve gioca in casa con la Lazio, e accade quello che i tifosi dell'Inter non avrebbero mai voluto vedere, perché a Mantova un ex interista che si chiamava Di Giacomo segna e l'Inter perde. Intanto a Torino Gianfranco Zigoni gioca il suo primo colpo d'ala, fa un assist e segna il secondo gol di testa. Cinesigno mi fa: Zigo, attento che io batto il corner. Batteva il corner divinamente, tagliato verso il primo palo, l'ho colpita, la palla è andata nel 7, praticamente imprendibile. Abbiamo saputo solo a fine partita, quando hanno fatto l'invasione di campo, ne abbiamo vinto, e là c'è stata la gioia della gente. A fine partita io ero felice, perché avevo 22 anni, e vincere uno scudetto con la Juve, col gol dello scudetto poi. Eh sì, una storia che io da interista ho vissuto da bambino, è stato solo uno dei primi tantissimi momenti di scoramento dei tifosi dell'Inter, ma questa vittoria della Juve è comunque segnata dalla presenza di Zigoni, era un'altra Juve, e difatti lui non ci rimane troppo a Torino, c'è un ambiente troppo rigido, c'è un allenatore che pretende che ci si alleni con costanza, c'è una dirigenza che esige un comportamento consono alla vecchia signora, insomma lui non è fatto per la fatica, non è fatto per gli allenamenti. Avrebbe potuto essere il migliore di tutti se si fosse applicato un po' di più, ma lui è così, è figlio degli anni 70, si portano i capelli lunghi, si sventola la bandiera del CESI, preferisce passare la serata a bere vino con gli amici o magari con qualche bella donna. Per essere un grande giocatore devi essere un grande atleta, prima di tutto. E io, a me non mi piace l'atletica, ma guardarla. E così nel 1970 Gianfranco Zigone si trasferisce a Roma, gioca per due stagioni e incontra l'altro Herrera, Elenio, che in quegli anni però è distratto perché sta iniziando una sua travolgente storia d'amore con Flora Gandolfi, la donna che poi rimarrà sua moglie fino alla fine. I giocatori se ne approfittano, assieme a Zigone ci sono Bobo Vieri, quello vero, il padre dell'ultimo Vieri, era un numero 10 da calzettone abbassato, un altro bel personaggio, c'erano Amarildo, Cordova, insomma una banda di giocatori che non ama molto la disciplina. In quei due anni Zigone ha la soddisfazione peraltro di giocare un amichevole contro il Santos dove gioca Pelé, e sentite come ricorda quel momento Zigone nel suo libro Dio Zigo, pensaci tu. Ad un certo punto Pelé si elevò nella notte per colpire di testa. Si fermò sospeso in aria e io a dirgli: Edson, scendi o no da lassù? Poi però un difensore prese la palla sulla linea con le mani e l'arbitro assegnò il rigore. Pelé calciò quel rigore e Ginulfi lo parò. Allora anche Pelé è un uomo normale, che sbaglia come me. Ecco perché ho continuato a giocare, altrimenti avrei smesso. E Roma è una città perfetta per Zigone. Lui abita in un attico sulla Cassia e ha un appartamento che diventa meta di donne bellissime con le quali lui si intrattiene in notti amorose appassionate. Nasce proprio una sfida con Vendrame, direi, a qualche chilometro di distanza. Poi Zigo il giorno dopo arriva un po' stanco agli allenamenti, fuma 40 sigarette al giorno, è un uomo di eccessi e quando entra in campo magari litiga con l'arbitro e si fa a squalificare. Rimane due stagioni alla Roma, diventa una pedina non più da valorizzare sulla scacchiera romanista, viene spedito al Verona. Lui è deluso, non ha voglia di tornare alla vita di provincia, ma non si aspetta di certo che per lui si stiano aprendo i 5 anni più belli della sua carriera. Siamo nel 72, il Verona è una squadra senza fuoriclasse. Il presidente Saverio Garonzi è un veronese, proprietario di una grossa concessionaria d'auto. Questo è un buon inizio per Zigone, perché lui le auto le ama molto e non si contano le auto che ha distrutto magari finendo in un fosso fuori dalla strada. Una bella corsa in macchina sia a 250 all'ora me la facevo, però tutto lì. Ho avuto anche un incidente a 200 all'ora, però Dio ha detto: se vieni qua tu fai casino anche qua su. E allora ti salvo, è meglio che stai, rompi i coglioni agli altri. Avevo il Porsche. Se morivo io, lo stadio di Verona, al Gianfranco Zigone. Dice, adesso si chiama Bentegodi, ma pensa che nome del cazzo che Bentegodi. Bentegodi. Insomma, avete capito che non era uno da stile Juve. Lui lo stile Juve lo odiava negli anni passati a Torino, anche se ha vinto con la Juve uno scudetto che gli aveva anche aperto le porte della nazionale di Valcareggi, ma quelle porte si erano chiuse quasi subito perché nella partita d'esordio contro la Romania Zigone decide di prendersela comoda. Un caldo tremendo a Bucarest. Invece Rivera è rimasto tutto il tempo all'ombra della tribuna, senza muoversi. Non corre e non corro neanch'io. Eh sì, però la differenza è che Rivera non doveva dimostrare a nessuno la sua bravura, mentre Zigone era all'esordio. Valcareggi, dopo questa partita, decide di metterlo in panchina e allora Zigone se la prende e gli risponde così. Non sono uno che ama tanto la nazionale e io in panchina non ci vado più. E lei non mi deve più chiamare. E così è stato. Meraviglioso. Finisce così il breve rapporto tra Zigone e la nazionale. Ma lui non è certo il tipo capace di soffrire per questo tipo di provvedimenti, perché lui ha un carattere orgoglioso, non abbassa la testa, non si fa comandare, lo ha già dimostrato in più di un'occasione. Adesso a Verona ha l'occasione di giocare con il solo scopo di divertirsi e fare divertire il pubblico, arbitri permettendo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la folle, meravigliosa storia di Gianfranco Zigone, un'altra rockstar del calcio, uno che ha alternato momenti di grandissimo talento, momenti di colpi d'ala, con azioni un po' stravaganti e anche autolesioniste fuori dal campo di gioco. Ed è in fondo quello che a noi piace, quello che ci esalta, un personaggio di quel calcio degli anni 70 che oggi sarebbe inconcepibile. Adesso non giocherei, però mi lascerebbero fuori, Invece a quei tempi, sai, la rosa era di 15-16 e giocavi sempre tu bene o male. Forse adesso mi adeguerei, però non credo, perché a me non piace allenarmi, non mi piace il sacrificio. La vita è corta, a me piace stare nell'ozio, guardare le stelle, la luna, scrivere qualche poesia così. Garonzi, il nuovo presidente, è un uomo semplice, alla buona, però è autoritario. Quando c'è da firmare i rinnovi dei contratti con i suoi giocatori, chiude a chiave la porta dell'ufficio, sequestra il malcapitato giocatore fino a che non firma le sue condizioni. È un po' uno scherzo del destino, visto che proprio Garonzi nel gennaio del 75 verrà rapito veramente e liberato 15 giorni dopo, dopo aver pagato la cifra di 1 miliardo, una cifra esorbitante per l'epoca. A Verona Zigoni ci arriva diffidente, perché lui ha trascorso 2 anni a Roma, tra i locali notturni, la gente famosa. Verona è una tranquilla città di provincia e Zigoni però si ambienta quasi subito, anzi quasi si arriva a dire che Verona era una tranquilla città di provincia prima del suo arrivo, anche perché in quella tranquillità lui trova la situazione per diventare amico di tutti, l'idolo dei tifosi, sia con i colpi d'ala in campo, sia con dei colpi d'ala che con il calcio c'entrano meno. Andare in ritiro con la pistola nella notte a sparargli i lampioni che avevo nel ritiro di Veronello col Verona, gli sparavo i lampioni, sì, adesso vai in galera, voglio dire, ma era normale per me, non capivo. Se ci penso adesso, però eravamo proprio un po' stupidotti, per far cose così, perché sono cose gravi. Andavo in campo, appoggiavo la pistola carica negli spogliatoi con la pelliccia sopra, sì, no, era anche un rischio per altri magari. Beh, io sono andato in ritiro a Veronello e ancora si narra di Zigoni con delle storie che ormai diventano leggenda: pistola, pelliccia, un cappello da cowboy. E in realtà questa è l'immagine che rimane più nitida ai tifosi del Verona in quegli anni. Valcareggi, che ha allenato il Verona per 3 anni dal 75 al 78, un giorno lo lascia in panchina e cosa fa lui? Entra in campo indossando una pelliccia e un cappello da cowboy e si va a sedere in panchina come gli altri. Immaginate la scena. E diventa un personaggio, il suo pubblico è conquistato, sul campo non ce n'è per nessuno, fa delle giocate spettacolari. Certo, non si parla di scudetto, a Verona però il pubblico corre allo stadio per vedere cosa sarà capace di combinare lo Zigo, e non è detto che l'esito della partita sia favorevole, perché lo sanno tutti che Zigoni è un anarchico del calcio, nessuno è in grado di comandarlo, anche gli allenatori lo lasciano fare, tanto sanno che se è in giornata sa risolvere la partita da solo. E se no, non c'è niente da fare. Ma sai una bella cosa che vi dico, che mi ha raccontato un tifoso del Verona? Ti fa Zigo, ma a noi non ce ne fregava niente se tu giocavi bene o male. Noi si partiva da casa e si scommetteva, dicevo, oggi ha voglia di giocare o non ha voglia? E a Verona Zigoni rimane 6 anni, segna 139 gol, si rende protagonista di imprese memorabili. Per esempio quella del 73, 20 maggio si gioca l'ultima giornata di campionato. La sfida per lo scudetto se la stanno giocando Milan, Juventus e Lazio. Proprio il Milan, avanti di un punto, arriva a Verona convinto di poter conquistare facilmente i 2 punti della vittoria che valgono lo scudetto. Ma Verona gioca un brutto scherzo quella volta al Milan e la partita finisce 5-3 e ancora una volta Zigoni fa cucire, anche se indirettamente, lo scudetto sulle maglie juventine. Anche una partita di calcio è il suo destino, ma sicuramente mi hanno fatto incazzare quel giorno, perché entrando tutto il Bentegodi era tutto rosso nero. Ho detto, ma come, giochiamo in casa, ci sarà anche un po' di giallo blu. Poi i miei amici tifosi mi hanno detto, ci hanno fatto rotolare le bandiere e metterle via, tutto rosso nero. Io entrando in campo vicino a un mio grande giocatore, grande compagno, Mazzanti, gli dico, oggi non perdiamo. E lui mi guarda e mi dice, ma sei matto? Almeno, al massimo faremo pari. No, oggi ci penso io. E così è stato. Mi hanno fatto arrabbiare, non dovevano. Eh sì, Zigoni gioca un partitone, a Verona si sente a casa sua, nessuno si deve permettere di far arrabbiare il padrone di casa, neanche i giocatori avversari, gli allenatori, gli arbitri, i guardialine. Immaginate la scena di un derby tra Verona e Vicenza, il guardialine ha qualcosa da dire a Zigoni, Zigoni in campo lo manda a quel paese, i due si incontrano di nuovo a fine partita, il guardialine chiede spiegazioni, vuole chiarire se ci fosse stato un calciatore normale, questo chiarimento sarebbe arrivato. E invece qua le cose vanno diversamente. A fine partita stavo uscendo col mio amico Renato Falloppa, si stava chiacchierando del più del meno, e viene là il guardaline con aria, ma non da cattivo, però mi fa: Zigo, ma cosa mi hai detto in campo? Sai, qualsiasi altro gli dice: ma no, ho scherzato, niente. No, ho detto... ma tu mi stai interrompendo, sto parlando col mio amico Renato e nel mio stadio, come ti permetti? Guarda, non so se posso dirlo, quella bandierina te la ficco su, sai dove? Testa di... e qua e là, e l'ho offeso, ho preso 6 giornate di squalifica. Sto parlando con un mio amico, come ti permetti? Che mondo meraviglioso che ci stiamo perdendo, 6 giornate di squalifica, una cosa normale per Zigoni, che di squalifiche ne ha racimolate molte in carriera, ma lui è così, fa parte di quel gruppo di artisti del pallone che riuscivano a entusiasmare il pubblico anche senza giocare a pallone. E non per niente Zigoni è grande amico, lo abbiamo detto all'inizio della trasmissione, è grande amico di un altro genio del calcio, un solista, Ezio Vendrame. I due una volta si affrontano uno contro l'altro in campo, è un amichevole Verona-Vicenza e Zigoni realizza una delle giocate più memorabili della sua carriera. Allora, abbiamo fatto una partita in notturna a Verona, Verona-Vicenza, c'era anche Renato Falopal. Era una partita amichevole, però sentita, importante per il pubblico. Faccio gol io subito, 1-0 per il Verona. Pareggia un certo Vitali, che ora è morto, poverino, travanti. Palla al centro, il pubblico di Verona cominciano Zigo, Zigo, Zigo. Viene anche un po' di emozione, così, anche se sono un duro, vi dico al mio compagno: dammi la palla. Avanzo, finta uno, finta l'altro, finta ancora. Sono arrivato a 30-40 metri dalla porta, una legnata di destro che non è il mio piede, nel 7 gol. Gol un boato da tutto il pubblico, preso, me ne sono andato. Il pubblico ha abbandonato lo stadio, è andato via. Una serie di dribbling, scarta mezza squadra, tira, segna, esce dal campo, è una prima donna, e quando la prima donna lascia il palcoscenico vuol dire che lo spettacolo è finito. Mancano ancora 20 minuti, il pubblico si alza e lascia lo stadio. Chissà se è andata esattamente così, a noi questa storia ci piace pensarla come se fosse vero. Gianfranco Zigoni è il testimone di un calcio che non si preoccupa troppo delle interviste del dopo partita, dei talk show, dei salotti, e certi vezzi che oggi sono la normalità sono venuti fuori proprio da calciatori come lui. Per esempio, lui è stato il primo, almeno si vanta di essere stato il primo a giocare con le scarpe colorate, gialle e rosse. Oggi è raro trovare un calciatore con le scarpe nere. Era quello a cui tutto era permesso, anche alzarsi tardi, iniziare gli allenamenti quando i suoi compagni li avevano già quasi finiti. Una mattina sento urlare fuori dalla porta della mia camera, apro la porta, c'è Valcareggi con lo gozzo. Mister, perché lui può alzarsi alle 10? E io no. Valcareggi gli fa: ascolta, quando avrai i suoi piedi puoi alzarti anche tu alle 10. Valcareggi per me era come un padre. Il segno vero, Zigoni l'ha lasciato nel cuore dei tifosi del Verona e per i quali è diventato una bandiera ricordata ancora oggi, quando nel 74 la squadra viene retrocessa in B per illecito sportivo, lui è uno di quelli che contribuisce a riportarla immediatamente in Serie A. Nel 78 lascia Verona per andare a giocare a Brescia e si rivela ancora una volta una pedina fondamentale, permette alla squadra bresciana di arrivare terza, di conquistare la promozione in Serie A. Però siamo agli inizi degli anni 80, Zigoni è stanco del calcio professionistico, lui che ha sempre dichiarato di non essere mai stato un grande appassionato di calcio pur avendone fatto la sua professione. Insomma, decide di chiudere la carriera nelle serie minori, gioca nell'Opitergina, nel Piavon, insomma, e va lontano da un calcio che comincia a cambiare e che non può piacergli. Poi anche vedere questi calciatori che con un piccolo tocco che li fanno, che prendono sulla faccia. Vabbè che il viso è delicato, si rotolano per terra, stanno a terra, mi dà fastidio questo. Spero che mio figlio non lo faccia mai. Invece suo figlio gioca e come, gioca anche bene. Gianmarco ha seguito le orme del padre, anche se ovviamente è un calciatore figlio di questi tempi e per sua fortuna non ha il carattere e le estrosità del padre, che oggi non sarebbero permesse. Oggi lo zigo è un tranquillo signore che ha passato i 70 anni, vive a Oderzo in casa sua, una casa piena di fotografie che ripercorrono la sua carriera da rockstar del calcio, le foto con Vendrame naturalmente, e poi la bandiera del CE, un tavolo con una bella bottiglia di vino da condividere con gli amici, tanti ricordi di una vita vissuta senza sottostare a nessuna rigida convenzione, lasciando esprimere il genio e il talento di un uomo che a Verona viene celebrato come una divinità. Abbiamo scelto ogni giorno di raccontare vite straordinarie, vite fuori dalla norma, vite di persone coraggiose che in qualche modo non si sono fatte uniformare. Ecco, noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare al Falco e Gabbiano se conoscete qualcosa che volete che noi si racconti, oppure interagite con me sui miei social, sul mio Facebook, Twitter, su quelli del Falco e il Gabbiano, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.